Giusy, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, salve, salve a Eccomi. tutti. Io posso riportare la mia esperienza. L'anima esiste. Io non posso misurarla, non ho questa capacità e credo che a livello conscio nessuno ci abbia questa capacità, ma io riesco a sentire la mia anima, quella che gli altri chiamano, quella che si chiama anima e che è una vibrazione, è una grande vibrazione. E riesco, sono talmente emozionata che riesco a sentirla anche adesso. Ecco, sì, poi esistono infinità di vibrazioni possibili che ci danno piacevolezza, che ci danno No, senso di Nicoletti, smarrimento. Come fa a no, chiamar che sia l'anima? Io anch'io vibro quando vedo una cosa che mi emoziona. guardi, no, perché questa è una cosa molto particolare. Io sento la mia anima, cioè la vibrazione, perché noi non siamo altro che un'estensione, una proiezione del mondo non fisico. E siamo mandati qua in uno spazio temporale per creare gioia e amore. Ma noi chi? Quando dice noi chi? E Soprattutto mandati da chi, noi esseri signorina, umani scusi? siamo composti da uno stato fisico e da uno stato non fisico. Lo stato non fisico è quella che noi chiamiamo vibrazione, anima, solo che non riusciamo a percepirla perché siamo troppo distratti dal mondo fisico, dal benessere Vabbè, materiale, dalle cose di tutti i questa è, giorni. diciamo, è alla base di ogni metafisica che, oltre l'aspetto concreto e fisico, esista qualcosa di ineffabile, va conosciuto, conquistato, di cui bisogna avere esperienza. Il passaggio fra mondo profano e l'area del sacro significa proprio avere lo strumento. Io, guardi, parlo senza nessun pregiudizio, Guardi, cito quello che l'umanità ha sempre detto. io ho lo strumento per Lo connettermi. strumento Allora, per le vibrazioni. noi abbiamo un'anima, cioè, noi abbiamo un'anima. Quando io riesco, e quest'anima, cioè questa vibrazione, questa entità non fisica, non è altro che un'estensione dell'entità non fisica, cioè di Dio, cioè quella che noi chiamiamo Dio.